e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sì, però anche tu, ti sembra il caso di dormire con la maglietta di Sforza? E quella di Ronaldo era finita. Non potevamo che partire così oggi. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a Deborah che si sta un po' spogliando. Ma qui non siamo ancora arrivati. Come al solito, io e te siamo sempre precarie di salute in onda. Tu c'hai i brividi di freddo, io dalla debolezza ho le vampate di caldo. E invece stanno benissimo. Stiamo facendo già lo sketch per loro praticamente. Stanno benissimo, ecco. I nostri tre stanno arrivando. Sì. Abbiamo aperto con una delle battute più che abbiamo tra le tante nel cuore. Sì. E intanto iniziate a scriverci, a chiamarci 800 24 00 24. Tra poco il trio qui in onda. Raccontateci anche la vostra storia con il trio. Come li avete conosciuti? Quali dei loro sketch vi è rimasto nel cuore? Vi stiamo aspettando e aspettiamo anche i vostri messaggi al 349 238 6666. Ma prima allora ci occupiamo di Danè. Danè, esatto, abbiamo il trio, lo sai che il nostro duo di Cuore e Denari è perfettamente riuscito, non solo il loro trio. Però allora loro stanno insieme da 25 anni. Io non so se arrivo a 25 anni. Com'è? No, non con te, ma non lo so, mi sembra vabbè, comunque ne abbiamo già fatti. Quante noi volte te l'ho detto che l'età di vita della questa è il quarto parinze, quattro, sono volati, sono volati. E anche noi abbiamo i nostri sketch. Secondo me dovremmo fare un po' un riassunto di quello che abbiamo combinato, che combiniamo nel dietro le quinte. Chissà se volete invitarci, noi siamo qua, il duo. Esatto. Fammi fare la serie adesso, per pochi minuti, con le notizie di Denari. Iniziamo con la borsa, anche qua oggi vedo tutto rosso. Nicoletta, Milano, vuoi sapere quanto perde Piazza Affari oggi in quest'ultimo giorno della settimana? E dimmelo. -1,75%, ti è. Mentre sono molto più brave le altre piazze europee, -0,37 Parigi, -0,12 Francoforte, Londra -0,58. L'euro stamattina è scivolato sotto 1,06 sul dollaro. Cosa succede? Janet Yellen, numero uno della Banca Centrale Americana, questa signora della quale parliamo molto spesso, ha detto ieri pronti a rialzare i tassi di interesse. Lo faremo prestissimo, quindi a dicembre ormai il mercato dà per scontato l'aumento dei Fed Funds negli Stati Uniti, almeno dello 0,25%. E di conseguenza il dollaro ha preso a volare su tutte le altre monete. Per quello che riguarda Milano invece è tornata la preoccupazione sul solito tema, è quello dello stato di salute delle banche, e infatti abbiamo di nuovo stamattina vendite molto forti su tutti i titoli del settore. La Popolare di Milano perde 5,5 punti. Unicredit -4,80, il gruppo pronta ad un maxi aumento di capitale. La società, appunto la banca di Piazza Gae Aulenti, proprio nelle ultime ore ha diramato una nota in cui conferma l'avvio della revisione strategica a livello di gruppo, il cui esito ha fatto sapere sarà rivelato al Capital Market Day di Londra del 13 dicembre. Ma ormai le indiscrezioni fioccano e questo maxi aumento di capitale è pronto, e vedremo appunto se la cifra sarà confermata. Intanto oggi va giù di 4 punti anche Intesa San Paolo. Monte dei Paschi, -4 punti, ne parleremo anche lunedì. Parleremo di questo maxi piano di conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, una situazione che riguarda, all'inizio si diceva solamente gli investitori istituzionali, e invece anche i piccoli risparmiatori, sono almeno 40.000 sul territorio, saranno coinvolti in questa operazione che ha ancora dei lati molto oscuri, perché non si sa bene a che prezzo verranno effettuate appunto queste conversioni, per cui cercheremo di chiarire questi aspetti con chi presumibilmente ne sa un po' più di noi lunedì, un analista finanziario e un'associazione dei consumatori. In positivo che abbiamo invece stamattina Brembo +0,8%, Campari +0,8%, Exor, la holding di Casa Fiat +0,63%, Italgas +0,32%. Per la borsa direi che è tutto, vediamo se abbiamo qualche altra bella notizia di Denari stamattina. In realtà, più che di Denari, oggi mi voglio occupare, Nicoletta, di questa bella iniziativa che animerà in questo weekend uggioso Milano. Lo sai che cosa c'è, no? Anche se tu ti fai la tua gitina. No, io guarda, io andrò a Firenze e nel giorno del diluvio. Del diluvio universale. Sto monitorando le previsioni. Laura Vanossi mi diceva, io l'avevo già vista, intanto lunedì tutta questa pioggia grigia, saette, tuoni, fulmini, quindi acqua. Quindi hai ben pensato di chiuderti agli Uffizi tutto il pomeriggio. Domani pomeriggio, sì. Brava. Dalle 3 visita guidata agli Uffizi, esco alle 6 e ne saprò molto. Molto, lunedì ti interrogo. Sì. Allora, parliamo di Book City a Milano e questa bella iniziativa che vedrà appunto la città animarsi di tantissime iniziative di presentazioni di libri e di incontri appunto su tanti argomenti. Allora, visto che oggi peraltro parleremo del libro del trio di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre uomini e una vita, la nostra vera storia raccontata per la prima volta. Lo presenteranno, credo, tra l'altro, certo, oltre che qui a Cuore Denari, anche in un incontro a Book City. Ma immagino di sì. Sì, mi pare di averlo visto nel programma. Che no, ma noi abbiamo l'anteprima mondiale, quindi siamo troppo contente. E ricordiamo che è a cura, ecco, di Michele Brambilla. Esattamente, che è loro, esatto. Allora, parlo un po' di libri anche io in questa rassegna stampa di Denari. Allora, intanto perché vi segnalo con piacere questa iniziativa lanciata dalla collega del Sole 24 Ore Monica D'Ascenzo, che gestisce il blog Tutto al Femminile Alle Hoop, in occasione di Book City. Che cosa fa? Un book crossing proprio particolare. Scegliete, allora ci ha invitato a fare questo Monica, scegliete uno dei vostri libri preferiti da mettere in circolo. Scrivete sulla prima pagina di questo libro l'hashtag Alle Books e l'account chiocciola Alle Hoop 24. È un po' complicato, ma se andate sul sito del Sole 24 Ore tutte queste informazioni le trovate, noi ve le metteremo anche su Facebook. E questo libro, con queste informazioni in prima pagina, lasciatelo in giro per Milano dove volete, su una panchina, in metropolitana, sul tavolino di un bar, dove vi pare. Fategli una foto a questo libro così abbandonato alla sua sorte, a se stesso, per postarla poi sui social proprio con l'hashtag che vi abbiamo detto, Alle Books. Sul blog potete anche scaricare e stampare un segnalibro, è tutto spiegato appunto e vi stiamo proprio indicando anche il link su Facebook e Twitter. Questo segnalibro naturalmente lo si può lasciare nel libro in modo tale che si riconosca che questo libro aderisce a questa iniziativa. Che, qual è l'obiettivo dell'iniziativa? È chiaro, l'invito alla lettura, mettendo in circolo libri che riteniamo interessanti, quelli che ci sono rimasti nel cuore, quelli che abbiamo letto di recente che magari invece non hanno avuto nessun significato per noi e quindi li vogliamo abbandonare in panchina, perché tutto no, aiuta, tutto aiuta, magari piace a qualcun altro. E insomma, è un'iniziativa che si fa in diverse città del mondo e quindi adesso anche Milano vede e partecipa appunto di questo progetto, e noi ve l'abbiamo segnalato volentieri. E voi continuate, lo state già facendo, a segnalarci l'incontro con il trio. Ci scrive Susi da Cucaro Monferrato. Ma sai che io lo conosco Cucaro Monferrato? Ma sì, perché tu ci sei... vado anche. Esatto. Allora, li seguo dai loro primi esordi, li adoro, con le O, tante O, sono fantastici, hanno una comicità positiva, qualche parolaccia ma non sboccati. Io parolacce non le ho sentite. Quest'anno sono andata a Torino a vederli, bravissimi. Ciao Aldo, ciao Giovanni, ciao Giacomo, ciao a tutti. Susi, ma ce ne sono tantissimi, certo, altri di messaggi. Il trio ho conosciuto nel 97 grazie ad una videocassetta dello spettacolo teatrale I Corti. Magnifico. Oh, I Corti, mio preferito, con tutto lo sketch dei gemelli, che è in assoluto, se io dovessi fare la graduatoria, è in assoluto ancora il mio preferito. Poi infatti io lo voglio ricordare, chissà se vengono con tutto il cordone ombelicale, bello, attaccato. No, guarda, ha e molti dei loro sketch nascono proprio dall'esperienza, così, dalla loro esperienza, sì, perché come si dice, la realtà a volte supera la fantasia. Fantasia, infatti. Posso raccontare ancora di qualche, sì, altro evento di Book City che ma voglio segnalare agli ascoltatori? Ci hanno scritto, si così numerosi. Allora, vi segnalo per esempio tra i vi segnalo ovviamente gli incontri di Denari, perché io quelli sono andati a cercare. Allora, intanto per esempio A come ASGR ce l'avevano già segnalato, ma organizza tre eventi che sono interessanti. Per esempio domani mattina alle 11 al teatro, li fanno tutti al teatro Parenti. Domattina c'è Fabio Innocenzi, che ha scritto, è un banchiere appunto molto noto nella comunità finanziaria, che ha scritto questo libro Sabbie Mobili. Esiste un banchiere per bene? Ma... punto interrogativo, chissà. Poi sempre domani, sempre al Teatro Parenti nel pomeriggio, c'è invece Ascesa e Declino, Storia Economica d'Italia, e quindi anche questa è una cosa interessante da seguire, visto che a Milano piove, rinchiudiamoci in una di queste appunto sale attrezzate per questa manifestazione. E poi domenica mattina alle 11 La Verità sul Capitalismo con John Plender. Altre iniziative da segnalare, per esempio ce ne sono tantissime che riguardano le donne, il lavoro delle donne, bilancio esistenziale di una conquista, un incontro previsto sempre domani alle 14.30. E poi posso segnalare quello di domani pomeriggio alle 16.30 su gender gap, la disparità fra uomini e donne nel mondo del lavoro, e un altro, insegnare le passioni donna, lavoro e innovazione. Potrei continuare ancora a lungo, ma insomma possiamo invitare i nostri ascoltatori ad andare sul sito di Book City. per vedere qual è il lavoro, il, come dire, l'incontro che fa al caso e loro. E intanto noi che dici? Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ma sì, dai. Perché no? Pronti? Andiamo. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Battesimo. Credo. Avrete saputo cosa? Fanno 25 anni di teatro. Ah, e non gli è andato 25. No! 25 anni. E fanno ancora ridere. Quello che colpisce è questi tre casi umani, come sì, hanno fatto ad arrivare da dove sono arrivati. Sono quei miracoli della vita di fronte ai quali si dice grazie, grazie Dio signor. Esiste. E anche noi non possiamo finalmente fare gli auguri, li abbiamo catturati. Non abbiamo neanche qua una torta, guarda, siamo un po'... Non l'ha non neanche è che siamo portata. State tanto ospitali, però. Sì, ma non ospitali, è proprio però il giorno specifico, per cui... Vabbè, siamo, abbiamo già passati 25 anni. Da poco, da però. Da poco, però. Cioè, sì, da qualche giorno. Li abbiamo tutti, adesso che tutti vedo Giacomo, io ho sempre detto il più bello del trio, ma adesso mi ricredo. No. Perché Aldo ti sei ricreduta, no, perché finalmente lui si è degnato di venirci a trovare, cioè, dopo che ci aveva sempre lasciato... mandato gli altri. Io appunto a Giovanni, guarda, ormai Giacomo l'ho cancellato. Bustaia. Ah, è Giovanni. Comunque mi avete lasciato la sedia più bassa, quindi probabilmente a me non mi avete neanche reputato. Vi siete affezionati a quei due lì perché il trono non era disponibile. Sono già venuti qua. Niente, il trono ci non sono era delle preferenze, questa cosa non mi piace. Sai Aldo, noi scriviamo. Io guardo le figure, le figure del libro, ecco. No, ha fatto le foto Aldo. L'ha fatte lui, no, i selfie? Le ho scelte a caso. Ma noi direi abbiamo, di riprendere in mano la abbiamo situazione, montato Nicoletta. Tutta questa cosa per averti Aldo, perché tu c'hai sempre, devo dire, e Aldo l'ho portato, diciamocelo, no, ecco. Comunque una bella responsabilità avervi qui, i nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo 349-238-6666 con invidia. Con invidia, ecco, noi li abbiamo anche baciati, poi vi mandiamo le foto. 800 24 00 24, se volete intervenire con noi. Un trio devo dire abbastanza consolidato, ma soprattutto un trio molto amato. E quando maneggi persone e tri molto amati, hai la tua responsabilità. Perché voglio solamente dare due indicazioni ai nostri amici, che la tournée che hanno fatto per il 25esimo anniversario è stata così acclamata, ha fatto un grande successo, ma quello che mi ha stupito è che loro anche anticipando, quando Paolo Guerra ha annunciato la tournée, siamo nel luglio del 2015, in 6 ore sono stati venduti 3.000 biglietti, lo dico alla donna di cuore, per una serata al Mediolanum Forum che si sarebbe tenuta quasi un anno dopo, il 10 maggio di quest'anno. Quindi questo trio è un trio che riempie palazzetti e palazzoni. Altro che, sono andati a Roma anche con il secondary ticket. La verità che i biglietti li aveva comprati Guerra, però non ha detto niente. Ah, tutti l'aveva lui già così, se l'era già assicurati nel caso le vendite fossero andate deserte, non si sapeva, insomma. Allora, abbiamo qua 3 uomini e 1 vita, la nostra vera, tra parentesi, storia raccontata per la prima volta, a cura di Michele Brambilla, volete salutarlo? Ciao Michele. Ciao Michele. È di Monza, però non ci siamo incontrati. Ma no. Ma dai, è così. Dice, sono di Monza, abito vicino a te, però probabilmente quando li do dall'altra parte vedo io faccio così, non lo so perché. E non puoi fare questi gesti, non ti vedono dalla radio, li dobbiamo descrivere. Comunque è una specie di album di famiglia, Giovanni. Come sì, lo ci sono delle bellissime foto. Ci sono, mi ho raccolto tante foto storiche e non molto, cioè, molto belle. E poi ci sono un sacco di aneddoti e storie delle nostre origini, si può dire, anche commentate in modo diverso, perché ormai passando tanto tempo la uno memoria si ricorda una cosa e uno si ricorda esatto esattamente ma l'opposto. Voi tre almeno ve le ricordate nello stesso modo rispetto alla versione di Paolo tre, Guerra? Cioè non si riesce a trovare, e addirittura quindi penso che tutto è avvenuto in un'altra città, per cui quindi magari avremmo potuto metterci un approfondimento sulla memoria, Nicoletta, esatto, stamattina. Va bene, allora rinfreschiamola un attimo. Se c'è qualche neuropsichiatra che ci può dare una mano. Ma guarda che noi ne abbiamo anche tanti. Guarda che ho scoperto, se posso dirlo, che il ginkgo biloba fa molto bene per la memoria. Ci avevi fatto un quizzone nell'altra puntata in cui dillo che il ginkgo biloba. Però purtroppo non l'ho ancora preso. Gli piace proprio. Allora adesso facciamo un piccolo test, vediamo se si ricordano. Perché noi gli diamo un calmante per endovenosa, che ne so io, tipo 4 cc di Plecibio. È medico, non lo sapevo. Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro. Signorina, sì. Mi prepari un calmante, dunque vediamo. Sì, 4 cc di placebo per endovena. Ecco. La lingua. Faccio vedere la lingua. Dottore, secondo me c'ha una colica renale. Non voglio più sentire neanche una parola, capito? Caro signor. Salve, Poretti. Caro signor Poretti, qui abbiamo una bella colica renale. Dobbiamo fare qualche esamino. Lei questa notte la passa qui dentro. Motivi precauzionari. Guarda che siamo già in ritardo, incredibile. Non, so non è che ci mettere a discutere con il professore. È un professorone. Professorone di stirpe, non è che si è inventato la voce d'onore. Se sa quello che deve dire. Beh, io perché mi esprimo male, ma le cose le dico giusto. E non è colpa tua, è che ti disegnano, no, così, esatto. Aldo. Però la storia della colica renale, diciamocelo, Giacomo, che è vera. Che c'è uno scheletro nell'armadio autentico. Oh, porca miseria. Non inventate niente di nuovo, ecco. Trasportate la realtà. Maurizio, non fate ricordi? Quello che casca. Certo, è scritto, certo, sul, certo, libro, noi l'abbiamo letto. L'hai scritto tu, peraltro. No, perché lui ha un'altra memoria rispetto a quella roba lì. Ero concentrato. C'era Maurizio. Sì, sì. C'era Maurizio. Maurizio è il Caffè Teatro, che praticamente è la persona che era proprietaria, tuttora proprietaria del locale dove noi abbiamo esordito. E lui, Maurizio, una sera, una delle tante frequentazioni, ha avuto una colica renale e l'ho trasportato in ospedale. Io eviterei i particolari di quello che è successo in ospedale, perché non sono chi l'ha vissuto lo sa, non magari sono edificanti. No, per te o per lui? Per lui, ecco. Beh, però io che ero lì, che eri lì, ce l'hai ancora questa immagine. Per te è edificante, perché l'hai soccorso. Già che c'erano, gli hanno fatto una perettona anche a Giacomo. Già che sei nella prevenzione, d'altronde non si sa mai qua. L'ha rimasta un pochettino dentro la siringa. Però abbiamo parlato di film. Tra poco ce ne sarà uno in arrivo, in arrivissimo. Siamo qua. Il 15 dicembre c'è l'uscita del nuovo film, Fuga da Reuma Park. Sempre sul filone, naturalmente, no? Medico sanitario, perché chi è che c'ha i reumatismi qua? Noi lo facciamo per voi, Lo facciamo per voi. Perché volete sempre guarda essere guarda che lei è donna di denari. Ma infatti qua ce ne ho un po' tre di domande, giusto. Ma non mi avessero scritto una cosa finanziaria in questo libro a cui io mi potevo attaccare. Ma no, c'è solo lo sketch del bancomat, poi dopo lo sentiamo, va. Chi è che si occupa di salute di voi due tu? Sono io, fare tanto lo spirito, perché perché ormai assomiglio alla Deborah, mi è venuta anche la coscia lunga. Vi siete un po' scambiati, perché sì, hai ragione, perché infatti io le borse gliele suggerisco io. Bravo. Ragazzi, quelle di Hermès, esatto. Andiamo a sentire il nostro GR, poi ritorniamo subito dopo insieme. Ci regalerete almeno tre libri di questi tre uomini e una vita? Certamente, per i nostri ascoltatori firmati, dedicati, tutto. Andiamo. Tre straordinari professionisti che hanno arricchito una parte della mia vita professionale. Vi voglio bene, Aldo, Giovanni e Giacomo, ve lo ripeto. 25 anni, complimenti, auguri, in bocca al lupo. Poi insomma è anche ora di piantarla lì, ragazzi, che si può continuare tutta la vita a fare pirla. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Ma prega perché il mondo va più veloce di me. Riproviamo a fare con un po' di serietà una bella trasmissione radiofonica questa mattina? Sì, io direi. A dispetto degli ospiti. Intanto è un po' arduo, ce la mettiamo tutta. Adesso ci ha raggiunto. Abbiamo anche chiamato soccorsi. Ci siamo. Eccoci. Sono arrivata dalla mia scrivania qua. Bello, le più brave, la Deborah, la zia Nico. Come ma sono contenta. Scusa una cosa, abbiamo preparato anche la cuffia dall'altra parte. L'hai proprio sbagliata. Ma lei vuole stare qua vicino. Ma perché a me. Mi sento ospite. Vicine. Mi sento ospite. Buongiorno a tutti. C'è buongiorno. Marta Cagnola con noi. Ciao Marta, buongiorno. Hai visto come ti salutano con affetto questi ragazzi? Sono belli. No, ma anche perché sono anche dei fighi. Beh, io ci perdo tante ore davanti allo specchio. Ti idrati la pelle tutte le mattine. Delle cose però. Io oggi mi sono un po' sfidanzata da Giacomo, però, perché gli dicevo sempre che era il più bello del trio. È per una foto che ha visto invece... che non stiamo a commentare. Allora parliamo di questa foto, apriamo questo capitolo. Raccontiamo agli ascoltatori cosa è successo durante la pausa. Vai Marta, fai tu la telecronaca in diretta degli avvenimenti. Posso dire a che pagina è del libro? Sì. Allora se Giovanni non vuole, vai. Non posso. No, perché a un certo punto Nicoletta, o come la chiamiamo noi, la zia Nico, che ha l'occhio clinico. E beh, sai, lei si occupa di salute. E quindi e faccio anche salute uomo. Esatto. Giusto. Apre questa foto con Tafazzi. Sì. E nota che l'effetto di questa foto è un po' equivoco, perché dietro non dire più, è equivoco, punto. Si protrude qualcosa che sembra, ma... Non abbiamo capito se bisogna. Io pensavo che fosse una trasmissione intellettuale. Però. Allora, pagina 91 del libro. Intanto lo segnalo a tutti quelli che ce l'hanno già. Buongiorno, sono il dottor Pislazzi, sono lo psicologo e l'avvocato di Giacomino. E vorrei, se è possibile, dare un'interpretazione a quello che Marta Cagnola ha appena descritto. Sì. Trattasi di un evidente equivoco, è un test psicologico, come quello dove ci sono i due volti o le due anfore. No? Uno può vedere il volto o le anfore, lei in questo caso se ci vede ha visto una terza cosa che non c'entra. È un sintomo di grande salute. Sintomo di grande salute. Esatto, sì. Allora dipende. Intanto avete detto che ci omaggerete di tre libri, almeno uno sì. a testa. Tre libri, certo. Allora però bisogna capire, perché le telefonate sono tante, i messaggi, WhatsApp eccetera. Diamo dobbiamo un compito selezionare, a questi sì. ragazzi, perché certo. sennò a chi vogliamo regalarvi il libro? Che provocazione possiamo lanciare? Allora, devo dirti che uno già secondo me l'ha vinto, Stefano, perché anni fa, un po' per scommessa, dice che per emulazione ha fatto colazione con la peperonata. Non so. Aldo, allora se ti ricorda vinto. Qualcosa questa sì, circostanza? Sì, ma io lo dicevo per scherzo, cretino, non è che dovevi farlo veramente. Può essere che per tre giorni sarei costipato, mi dispiace. Qua c'è la Deborah, è quella della salute, giusto? dopo facciamo due considerazioni. Vabbè, vedi, ma chiamatevi uguali. Che me ne frega, ormai siete una cosa sola. Come questo amico di mio papà che aveva tante donne e allora le chiamava tutte Cioci. È quello che farò anch'io, visto che non mi ricordo più però, i nomi. Ecco, chiamaci, non so, Cioci. Allora, che cosa facciamo? A chi regaliamo il libro? Possiamo regalarlo. Vogliamo fare il quiz? A chi? Non riproporre quella del Ginkgo Biloba perché l'hanno già fatta. No, fanno un'altra. C'è una foto a pagina, però non gli occhiali, non so che pagina è. E noi siamo sui salvagentini. Sono sempre il dottor Pislazzi che viene in soccorso di Giovanni a pagina 34-35. Ecco, la foto con dei salvagenti. Saperci dire questo posto qua. Dove è stata fatta questa foto? Allora, a noi salvagenti. Mare, chiaramente. Io la so. La sai, c'eri? 800 24 00 24, candidatevi. No, però voglio sapere, il libro è già in circolazione, nel senso qualcuno può averlo già comprato, quindi andare a vedere al volo la foto così per avere dei riferimenti. È più facile. Direi che sarebbe più. Possiamo dare un aiuto? Dai. Possiamo dare un aiuto? Tirreno, Adriatico, Ionio, almeno. È Mar Tirreno. Sì. Sud. Okay. Al sud, estremo sud, e quindi abbiamo già detto troppo. Intanto continuiamo. Ti sei persa il tuo momento sul bancomat? Ma lo posso recuperare dopo, magari un attimo. No, ti hanno rubato il bancomat. Non lo so, ma abbiamo lo sketch pronto da parte. Ne abbiamo un altro che sicuramente Marta conosce bene. Facciamoci l'inganno della cadrega. Bravo, Gino! Vai a prendere la cadrega, te intanto io. Sei scaltro come una faina. Bravo. Dottore, lì è Brambilla. Venga, si accomodi pure. Si serva, prenda pure una cadrega. Una cadrega non si rifiuta nessuno. Ragioniere Fumagalli, prego, si accomodi. Bella cadreghina, Sì. Prego, prego. La cadrec. Buona questa cadrec. Ah, la mela sarebbe la cadrega. La cadrega è la sedia. Caro il mio bel ragioniere. Volea di che bella sta catrec con sto legno ben stagionato. Vabbè, sarà un test per me, era troppo facile perché sono brianzola. No. Quindi io sono un po' Brambilla Fumagalli. Dicesi cadrega la sedia. Ma ormai ecco, tutta l'Italia lo sai, tutti la sanno che è una mela. Però. La cadrega è diventata una mela. Grazie. Infatti, io quando devo fare il forno di legno gli do un chilo di cadrega e mi dà le mele. Ecco, insieme alle brugole, insieme alle brugole magari. Sì, perché dovete sapere che quando io nel 97 sono arrivata a Milano, dalle Marche, tornando nelle Marche, andai a vedere un film famoso vostro con mia cugina, dove comparve tra le prime scene appunto il paradiso della brugola, e io non ne avevo la più pallida idea di cosa fosse. E quindi anche lì, insomma, ho fatto un salto di qualità nel mio gergo milanese o lombardo, insomma. Nicoletta, allora, Domenico ci scrive: i miei sketch memorabili del trio sarebbero decine, ma il ricordo che mi lega a loro sono le ripetute apparizioni di Giacomo al bar dietro il mio istituto agrario di Villa Cortese durante le pause, quinquennio 1992-1997. Grandissimi, Domenico. Quindi eri sempre al bar tu. Sempre al bar, lì ci abitava mia madre e mio padre. L'abbiamo scoperto con il bar, andavo lì perché mio papà mi diceva: vai a comprarmi le sigarette. Io andavo al bar a comprare la sigaretta, ma non è che mi soffermasse lì al bar, piuttosto lui, piuttosto che studiare. Cosa ci andava a fare al bar? Domenico! Doveva andare all'istituto agrario. Chissà che minchia di rapanelle pianta adesso questo Domenico. Ma poveretto, guarda, invece di così essere contenti di questo ricordo, no, niente, lo mazzolano. Trattato malissimo. No, invece mi contestano la modalità di regalo del libro, Nicoletta, perché io ho detto: chi ce l'ha, perché? Guarda la foto, e questo qua subito mi dice: così date il libro a chi già l'ho acquistato. Anche questo è vero, è in vero. Effetti, non è proprio. Questo è vero, non è stata una furbata, però anche io avrei dato lo stesso suggerimento. Vedete il libro dall'amico, perché Marta, sì. Allora, questi stanno insieme da 25 anni, un trio di quelli veri che noi tutti amiamo e bla bla bla bla. E intanto gliene mancano 25 per arrivare ai Pooh, che ne fanno 50. Quindi... Beh, io posso dire che ci rinuncio. Preventivamente, non è un record. Cioè, lavoreremo anche perché 25 anni vuol dire che adesso... Dico l'età di Giacomino che ne ha 60. Fra 25 anni abbiamo 85. 85. Io non voglio vedere Giacomino 85 anni sul palcoscenico. Lo sopprimiamo prima. Soprattutto io non voglio vedere Aldo 83 anni. Grazie, che Giacomo. Già adesso è ostinato e ha tutti i segni della decadenza geriatrica. Non me lo voglio vedere. Perché, 83 anni. Perché rovinare quello che abbiamo fatto? Giovanni tu stai zitto, non è che sei zitto, non è che sei messo bene. Li lascio, avrebbe tanto io. Posso chiedere a voi per questo anniversario che cosa vi siete reciprocamente regalati? Una bella cippa di niente. Bel regalo col fiocco, adeguatamente confezionato. No, in realtà non... Ma adesso io ci penso, Perché non è carino non farti dei regali. Io ho pensato quando ci già sono una cosa. C'è tempo fino alla fine dell'anno, Sì, Aldo. Sì. Ah, sì, ecco. Faccio il regalo di Natale, del compleanno, del 25esimo, tutti insieme. No, del compleanno me l'hai già fatto. Posso fare una considerazione un po' pochino seria? Sì, sì. Vai. Che per rimanere insieme così tanto tempo bisogna essere creativi, artisti, ma anche un po' imprenditori, cioè bisogna saper gestire l'azienda, e poi bisogna anche essere, perdonatemi se faccio un'affermazione un po' pesante, però delle brave persone. Io credo che nessuna di quelle che hai detto. Allora, chi è l'amministratore delegato di questa azienda? Cioè, penso che il fatto di essere artisti non c'entra niente. Perdonami. No, ma... Poi l'altra che hai detto cos'è stata? Un po' imprenditori. po' imprenditori, anche quello, forse. Sì, la seconda, terza, sì, no, no, sì, sì. No, essere imprenditori è la cosa più lontana da noi. Mm. E no, beh, però voglio dire, c'è qualcuno che insomma. Che si occupa che di noi da questo, questo punto, di punto di vista. Per cui siamo caduti. E lo avete cercato tanto a lungo agli inizi della vostra carriera, no? Perché oltre a farvi conoscere, vi serviva anche qualcuno che vi guidasse in questo senso. Assolutamente. Sì. No, no, non siamo dei buoni imprenditori, abbiamo avuto un buon imprenditore. Ecco. Quindi Giovanni, secondo te qual è il segreto di questa amalgama infinita? Il segreto sta nella tolleranza, nell'amicizia, nella sensibilità comune. E quindi siete persone per bene, come diceva Marta. Cioè, scusate, ma devo puntualizzare. Dai, ma che vi divertite. Perdonami. Non li sto, non direbbero mai. Non possediamo il dono della sintesi che lei ha. Noi non li sto, direbbero tanta droga. Nel nostro caso. Non si può dire. Noi abbiamo provato una volta non a drogarci, ma a ubriacarci, perché vedevamo un sacco di nostri colleghi che prima di salire sul palco bevevano whisky, roba del genere, per allentare la tensione. Noi non è una cosa che non abbiamo mai fatto, però una sera giusto al caffè teatro mi ha detto: ragazzi, buttiamo giù un po' di roba. L'abbiamo fatto, è venuto uno spettacolo ma di merda, ma così di merda adesso spettacolo l'ha chiamato. Avete bevuto prima, chiaramente, non dopo, per festeggiare. Sempre prima, perché ridi senza motivo. La gente dice: che cavolo sanno da ridere, non hai più concentrazione. E da allora, se qualcuno si azzarda a prendere una birra un'ora e mezza prima dello show, viene cazziato duramente. Dagli altri. Quindi sempre io. Vedi che se il libro lo hai già, lo regali a Natale. Elementare, ci scrive Giacomo. Quindi ha ragione Deborah. Se ce l'avete, andate a sfogliarlo. 800 24 00 24. Noi continuiamo a sfogliare questo nostro album dei ricordi e andiamo. Professor Alzheimer, buonasera, tutto buonasera, bene? Buonasera, come per va? Favore, è un momento drammatico, la medicina non è spettacolo. Scusi, facciamo un passo indietro. Sarà anche un momento drammatico, ma vediamo un idiota che fa evoluzioni su una sedia. Dottor Marinalli, cosa sta facendo? Cos'è, una giostra questa? In effetti. Lei deve essere qui a assistere, c'è un'operazione in corso. Dottor Marinalli. Non faccia lo stupido. Dottor Pivetta, che pinza mi passi? Pinza di Bering. Oh, bene. Ma non era uno stretto? Lei è un po' troppo saputello, dottor Pivetta. Insomma. Con che punteggio si è laureato? 110 e lode, professore. Con bacio accademico? Bacio accademico. Lei è insopportabile. Ma perché? Sa il suo lavoro. L'ho presa in castagna. C'è? Qui c'è la flebo e non è collegata. Perché adesso le fanno senza fili, professore. Tecnologia Bluetooth. Ma cosa dice? Non ne sapevo niente. Come della mia clinica. Le flebo. Ma se l'ha inventata. Allora, ho letto e ho provato che digitando su Google dottor Alzheimer, la prima voce che esce è il vostro sketch e dopo arriva il dottor Alzheimer, è pazzesco. Hai provato a farlo? Eh sì, perché a me, detto, l'ho letto ma non l'ho ancora provato. No, io l'ho scritto, ho detto, ma com'è possibile? Quante volte sono andata su Google a vedere Alzheimer, trasmissioni, anche per noi, insomma. Dottor Google, che adesso va tanto di moda. E se tu premetti voi? Dottore, no? Sì, dottor Alzheimer Marinalli. Allora, dottor Marinalli. Io mi sembra giusto chiedere scusa al professor Alzheimer. Per tanto non c'è più, per cui. Vabbè, in ogni caso ci saranno i figli, i nipoti. Comunque alla memoria. Quei personaggi lì sono forse quelli che mi fanno ridere ancora. Anche a farli. Perché voi ridete anche a rivedervi. Perché è uno scherzo molto aperto, perché io mi dimentico le cose veramente. Giacomo cerca di correggermi, Aldo si inventa tante cose, quindi diventa una situazione molto esplosiva. Senti, possiamo sentire anche Stefano da Rimini? Sì, dai. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Qui non c'è il sole, ma penso che sia come a Milano. È uguale, guardi, grigio, vada. Però sentire queste voci di personaggi che ho conosciuto in TV, c'erano tanti comici in quella trasmissione sportiva. Mai dire gol, grazie. Anche a lui un po' di ginkgo biloba, dai. Ginkgo allora, biloba, Stefano. Niente, ho visto tante cose di questo trio che per me è il numero uno in Italia. Faccio fatica a ricordarmene tutte perché le ho viste tutte. E quindi bene, è preparato. Volete interrogarlo? No, volete salutarlo? Aldo? Assolutamente sì. Quindi certo. Una laurea ad onorem, no? Visto che ha visto tutto. No? Direi di sì. direi che gli potremmo anche regalare un libro, visto che... Beh, adesso non esageriamo. Regalaglielo tu, Aldo. Va bene, ok. Vabbè, Aldo, solo con l'autografo di Aldo, e se vuole anche il mio. Certo. Non quello di Debora, il mio. Okay. No, io solo in accoppiata con Giacomo, da allora, oggi in avanti. Andiamo ancora un attimo su Google, allora. Perché anche lì andate molto forte, e da Google io passerei allo Zingarelli. Ah, mi faccio vedere il biglietto, se ce l'ha. Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso. Se l'ha perso farò la contravvenzione, va bene? No, capito, le farò, perché metto le mani avanti. No, ho detto, se non ce l'ha le farò a futuro la contravvenzione. Se lo troverò si rimangerà anteriore. Senta, tiri fuori sto biglietto, se ce l'ha, se no le faccio la contravvenzione. Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso. Andiamo avanti una vita, Vuole una sigaretta? No, grazie. Guardi che non è mica per corrompere. Ci mancherebbe che vuole corrompermi con una sigaretta. Vuole il pacchetto? Allora lui è Tafazzi. E la definizione del dizionario non è... Ecco. C'è un No, perché no. Io pensavo della... Volevo leggere la definizione dello Zingarelli di Tafazzi, che scrive: cognome di un personaggio impersonato dal comico Giacomo Poretti in una trasmissione televisiva, si colpiva il basso ventre con violente bottigliate. Correva l'anno 1995. Sono già passati tutti questi anni. Cosa facevi tu nel 95? Stavo lavorando in una TV privata. Lavorava nelle sempre. Marche. Io anche io, laureando. Insomma, facevo la gavetta. Come io mi devo delle martellate sul marrone. No, ma ascolta, visto che abbiamo sentito lo sketch sull'autobus, io volevo chiedere ad Aldo se si fosse formato un'opinione su questa decisione che ha preso la Giunta Raggi a Roma, che ha lanciato come nuova sperimentazione il controllore fisso a bordo per 5 linee della capitale. Aieie Brazorf, come commenterebbe questa situazione? Ma io sono d'accordo sui vigili, sui controlli, su tutto, visto che io ieri ho preso una multa, mi è arrivata una multa di svariati milioni di euro. Svariati una cifra abbastanza grossa. Fatto? Non lo so, però è da maggio che questa multa va avanti e indietro. E sinceramente non ho ancora capito che cosa succede. Ma ammesso che sia passato col rosso o che ammesso, cosa? Ammesso, hai capito. È scritto. Perché lei e io, siccome no, non è, vabbè, comunque è molto più complesso, ve lo spiego dopo. Comunque il fatto che ci siano tutte queste fotocamere che ti riprendono, cioè, io preferisco il vigile, almeno posso parlare e so cosa ho fatto, così io non so mai cosa ho fatto, devo tornare indietro, mi incazzo sempre con un mio amico vigile, poi non c'entra niente. Capite la tattica, dal vigile si no, può no, scappare. No, dal vigile non per farmi tagliare la fuga. Per capire dove l'ho presa e cosa è successo. Però dal vigile si può scappare. Per allora, cui, dalla telecamera no. Sia Aldo, ti dico un segreto, vai su internet e c'è la tua foto della tua macchina, sì, su quello che hai fatto. Posso dire che è vero che c'è? È vero, anch'io. Dicevo, ma dove l'ho presa sta roba? Vai su internet, ho visto la moto e la foto dietro, quindi sì, non ci scappi. Vabbè, probabilmente devi avere un'applicazione per farlo. No, vai sul sito il codice della multa, se digiti multe di Aldo Baglio, viene fuori tutto l'elenco. Un album fotografico. E poi proverò anche a fare multe di Giacomo Poretti. Sì, ma infatti ce n'è. Anche perché, Marta, che ne facciamo? Non lo so, io starei qua a ascoltarli per ore, anche perché loro hanno tutte queste espressioni che sono entrate nel gergo comune e familiare. Ad esempio a casa mia si dice turnica, quando il cane rompe le balle ringhio e lo attacchiamo dietro, non è vero, lo attacchiamo dietro la macchina. E poi per motivational, sono Pdor, figlio. Io quando mi sento un po' dai, che devo prendermi la carica... Sì, infatti mi hanno proposto di fare il personal trainer, così vestito come Pdor, però ho rinunciato. Però mi sarebbe anche piaciuto. Beh, non è detto che nei si prossimi, possa fare nel futuro. Se vuoi ti sosteniamo, giovane. Anche perché se vuoi arrivare ai altri 25 anni qualcosa ti devi inventare. Tu non devi inventare, ma leggere i mercati, ad esempio. Ah, è già ora? 29... Adesso le faccio fare... Mamma mia, come faccio io a fare un minuto di borsa ma mantenendoli in religioso silenzio? Sai che tu sei magica. Cioè, bah, dai. Vabbè. Possiamo commentare mentre parli? Ma sì, oggi purtroppo non posso. So che ieri Milano ha chiuso male. Sì, oggi va peggio. E oggi te lo dico già che sta già andando peggio. Ho sentito sì. Invece che aveva. Salita, no. Niente no. Da fare, mi devo smentire in diretta. Le tue azioni, Aldo, spazzate via. Non ne ho azioni, ho ottenuto solo i soldi. Solo i bot. Il materasso, sotto il materasso. Ne parlo dopo, quando ve ne sarete andati? Qua, tra l'altro, parlo per gli ultimi quarto d'ora che ho a mia totale disposizione, parlerò proprio di tutti i contanti che avete nel materasso. Ma di che malattia ci occupiamo? Io ce l'ho nel sottotetto i soldi. Non ci occupiamo di degli interisti, che adesso sono già qua che soffrono, che domenica c'è il derby. Questa non ce l'aspettavamo, tra poco. È ansia. È una pugnalata. No. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Di cosa stavate parlando? Se si può far sapere ai nostri ascoltatori. Parlavamo del nostro regista Arturo Bracchetti che fra poco farà uno spettacolo nuovo. Sì, ne parlavamo proprio con Marta, che lei è la nostra donna. Io adoro Arturo Bracchetti come tutti. Tra l'altro la cosa bella è che siccome Arturo Bracchetti è sempre in giro per il mondo, bisogna catturarlo quando è in Italia. E poi lui scappa, perché un attimo è qui e un attimo è là. No, poi stavo e guardando... poi quanti personaggi può fare? Esatto. Sarà veramente lui? O... No, ce ne sono 5-6 per il mondo. Esatto. E poi si riuniscono per fare lo spettacolo insieme. La riconosci dal ciuffo, quello vero. Da Cristina. Sì. Infatti una delle cosa che gli ho chiesto quando l'ho incontrato è stato: che cosa ha in casa? Qual è il suo magazzino? E leggo che questo solo, un nuovo one man show di Arturo Bracchetti, che sarà in Italia, in questo spettacolo Bracchetti aprirà le porte della sua casa, quindi avrò la risposta. Vediamo cosa c'è nei bauli di Bracchetti. Chiediamo a loro se ci siete stati, l'avete voi? Noi siamo stati se si mettono una buona parola. Ha una parete segreta, serie di cose, incredibile, come Men in Black. Degli inganni particolari, interessanti. Sì, lui è torinese, non si possono raccontare. Lui è torino. Non è per dire, è torinese. Ah. È torinese. Sì. Ne? Parla pa. È torinese, però non vede l'ora di lasciarla quella città. È sempre in giro per il mondo. Ci sarà un motivo. Renato, buongiorno da Monza. Sentiamo che avventura. Buongiorno a voi. Buongiorno. Qual è stata la sua avventura con il trio? Ma con Aldo stavo camminando per le vie. Sì, di Monza, ci incontriamo spesso perché sono un grande camminatore, lo può dire, vero? Eri in bicicletta. Ah. Chi? Lei, Renato o Aldo? Chi era in bicicletta? Aldo era in bicicletta. Era in bicicletta, stava firmando degli autografi. In bicicletta mentre andavo. Ecco perché ha preso la multa. E niente, erano circa le 7 di sera, poche ore dal derby. Io, mentre lui stava firmando, dissi solo: Aldo, forza Inter. E lui cosa rispose? Vediamo se se lo ricorda. Vaffanculo. Sempre davvero interista, mi rispose sempre. Vedi. Ma era Aldo, sicuro, Renato? Sì. Si può sapere in che anno? In che anno? Questo non me lo ricordo. 5 anni fa, può essere. Cinque anni fa, ancora andavo in bicicletta. Ti ricordi quella sera che eri lì in bicicletta a Monza? Forse 5 anni fa potevate dire forza Inter. Certo, adesso questa... vabbè, non parliamo del derby. Adesso si dice forza Inda. Si è cambiato un po'. Allora, Marta, qua bisogna che noi. Io volevo chiedere a Paolo se abbiamo un pezzettino da far sentire a loro. Ce l'abbiamo, no? Mi fanno uno scherzetto? No. Perché volevamo far sentire, dato che c'è stato questo grande incontro con Arturo, di cui abbiamo parlato, lo spettacolo, eccetera. Però nel vostro libro l'ho paragonato un po' a, adesso io non so bene i gradi, ma un generale o un caporale, insomma, vi ha messo un po' in riga. Ma in realtà non è vero, è un... Ma l'avete scritto? Ma sai quante cose abbiamo scritte che non sono vere? No, diciamo che lui ha una metodologia generale. Esatto, molto, cioè lui è uno staccanovista del teatro, veramente, lui prova tantissimo, anche perché le sue cose devono essere molto provate, molto precise, perché se sbagli un cambio fa schifo. Solo che con noi è capitato male. Però noi invece abbiamo tutta un'altra filosofia, provare il meno possibile e cercare di improvvisare. Quindi la sua presenza sicuramente ci aiuta a essere più precisi, però non è che è un generale... lui urla, altro... sbraita, però dopo tre volte che ha urlato, diciamo solo che ha una grande pazienza e una grande visione dello spettacolo, e quindi la capacità di allestirlo. Si comporta luce... così con noi, ci lascia un po' fare, vabbè, ci lascia fare. Però vabbè, diciamo che nel suo campo, quando ci sono le prove, veramente non esiste giorno e non esiste notte, immagino. Vabbè, io non so se sia vero o no, comunque lui così scrive di voi. Andiamo. Loro tre mi sono piaciuti subito tantissimo. Mi ricordavano i Fratellini, un trio italiano degli anni 30, dove c'era quello che si arrabbiava, che per noi è Giovanni, quello che cerca di fare da paciere, Giacomo, e uno più infantile, che è Aldo. Li ho trovati buffi, che per me è un gran complimento. All'estero la parola buffo si usa in italiano e vuol dire persona comica di natura. Essere buffo significa che uno ha una dote particolare, per cui quando entra in scena fa ridere prima ancora di dire o fare qualsiasi cosa. È un dono straordinario che pochissimi hanno. Ce l'aveva Totò, per capirci. E ho detto tutto. Nelle Marche i buffi sono anche i debiti, vorrei dire, così. Non so, sì. Mi è venuta vedi questa... I buffi sono quelli che hanno mistero. Ecco, per Marca. Andare nobiltà. E nella Brianza i buffi chi sono? No, ma si dice anche come nelle Marche. Davvero? Sì, anche... si dice. A Milano no. Ma no, i puffi provincia sono sì. No, dai, i buffi. Buffi. Da buffo da buffi. Buffi, però, ecco l'arcano. Cambia un po' la consonante, ma è quella lì. È quella allora, lì. Io vi dico che però il mare non lo trovano. Non lo trovano. È difficile, possiamo dirlo noi allora. Sì. Ma no, potete dire però come possono avere un libro, perché se no ne abbiamo solo tre. Hai qua fatto una domanda difficilissima, dai, il Ginkgo Biloba era più facile accorto. Dell'altra dai, volta. Dai, me ne sono accorto. Fai una domanda facile, dai. Vediamo, una domanda sempre facile. Tratta dal libro. Diciamo così, in che anno a mai dire gol è stato presentato, sono stati presentati gli svizzeri? Ah, vabbè, dai. In quale edizione? In quale edizione? In siccome quale noi edizione? Abbiamo fatto 94-95, 95-96, 96-97. Poi abbiamo fatto un'altra edizione, ma molto più avanti. Però quindi dobbiamo. Quindi, dovete sì. giocarvela in queste tre sì. edizioni. Queste tre edizioni. Solo in un anno? O dopo? Le abbiamo fatti solo in un anno. Un anno solo? 800240024, questo è l'unico modo, un unico numero verde, un solo numero verde. Arrivano tantissimi messaggi, vuoi leggerne qualcuno? Sì, voi Marta, li avete che su WhatsApp io... tanti, sì. Beh, ce n'è uno molto bello di presa, Massimo. Vedi? Marta. Ce n'è uno molto bello di Massimo che dice: siete bravissime, grazie della vostra arte. Un abbraccio speciale a Giacomo per la sua testimonianza sulla bellezza e la spiritualità della vita. È bello questo. No, che è venuto anche da noi a fare, peraltro, no? Mi sbaglio? Con il suo libro di qualche mese fa. Sì. Esatto. E infatti c'ha l'aureola, c'ha persino Senti, l'aureola. Ma voglio chiedere Aldo, quando è che scrivi un libro anche tu? Ma penso mai. Ognuno ha i propri talenti, segue le proprie passioni. Io ma non fai un libro di disegno. Posso dire una cosa? Quello potrei farlo. No, cioè. No, posso dire una cosa così intanto. Allora, Aldo, stamattina, prima di venire qua, ho restaurato con l'Attac, io, no? Una tua opera che mi hai regalato anni fa, che era un dinosauro di quelli fantasiosi, no? E che nel trasloco gli hanno tranciato la coda. Io ho detto, cosa faccio? La porto all'artista? Ma no, ma i dinosauri prima oppure al falegname che con 10 finisco. Euro la faceva no, meglio. L'ho fatto da solo, perché Aldo fa... L'era dei dinosauri è finita. Lo so, però io posseggo un dinosauro di Aldo. Perché lui è uno, ti mandi la un foto. Artista. Vi mando la foto, sì, non Dai. Ce l'ho qua, ve la mando. E noi andiamo, anzi restiamo a Milano, c'è Gino. Buongiorno. Gino. Buongiorno. Vedi come sono contenti oggi che ci siete voi. Che la borsa va giù. La borsa va giù, non parliamo di Alzheimer. Gino. Sì. Allora. Allora, intanto grazie a loro tre che sono eccezionali. Volevo raccontare un mio episodio, nel senso una mia storia. Io c'è una scena che loro fanno, uno sketch, che non riesco a vedere, non riesco a vedere la fine perché non ce la faccio da ridere, cioè proprio piango e comincio a star male non riesco a finire, sarà 20 anni che ci provo ma non riesco a vederla. Qual è? È quella che loro sono al cinema e lei fa tutta l'intellettuale che Con la Marina a teatro? Sì, esatto. La Marina Mazzarino. E lei fa tutta l'intellettuale che spiega tutto quello che succede, loro tre non ne possono più e cominciano a buttarsi per terra, a farsi le sì. pere sulle braccia. Ecco, io non riesco. È lo sketch che chiamiamo le poesie noi. Scusami, Marina, con la Marina Mazzarino. Quella dei corti, sì. Quella dei corti. Sì, no. Sì. Perché in effetti ci faceva molto cosa. Ridere anche a noi. Era uno di quegli sketch che noi chiamavamo appunto aperti all'improvvisazione perché ogni sera poteva succedere di tutto. Di tutto. Sembra che mi sono imbarcato, ma adesso ne esco, quella. Esatto. Ma invece qual è stato uno sketch particolarmente costruito, visto che voi vi soffermate sempre tanto sul fatto della grande spontaneità, no? No, da cui nascono... Tutti gli sketch sono costruiti, però alcuni hanno più possibilità di invenzione. Oppure capita qualche impiccio, qualcuno non si ricorda una cosa, qualcuno fa uno strafalcione e quindi lo sketch si allarga. Però in genere gli sketch sono molto più rigorosi di quello che sei. Per esempio lo sketch della macchina che noi andiamo a Pizzo Calabro, quello è raramente mi ricordo che lì abbiamo fatto delle improvvisazioni perché sono... Poi sono battute molto ravvicinate. Arturo! Eccoti qua, hai sentito cosa dicono, sei contento di loro. Eccolo qua. Generali allora. Ciao Arturo, l'abbiamo beccato. Ciao. Bastardo, ti chiamo e non mi rispondi mai. Risponde. No, ero a letto. Arturo Bracchetti risponde a cuore denari. Hai letto a letto tardi, che domande fai? Ma io lavoro ragazzi. Io faccio le prove fino alle 3 di notte. Vedi che... Ma davvero lui è così. Sì, Si molto può guarire da quella malattia, Arturo? Ormai è troppo basta. Lavoro. Workaholic sono. Giacomo, dagli la ricetta allora. Così di fregarsi bisogna un po', rilassarsi un andamento attimo. Lento. Un po' di sbattimento. Voi vi divete la responsabilità in tre. È vero. Io è vero. Me la devo caricare tutta sola. Questo capito? È vero. Poi e fra infatti, poco sei in scena. Solo è proprio vero, Marta. Sì, solo qua. Il titolo, sì. One Man Show solo. Arturo, cosa fai solo. Di bello nello spettacolo nuovo? Un culo micidiale. Eccolo. Quanti no, personaggi nuovi? 50 personaggi. Anche le favole che volevamo fare tante volte, le favole faccio Capuccetto Rosso che esce dal lupo, Aladino che vola e compagnia bella. Poi faccio anche i cantanti pop stavolta. Pure. Quali mi cantanti? Vedrai da Pavarotti a Beyoncé. Di quante cose abbiamo parlato? Di un libro, del trio, del film del trio, dello spettacolo di Arturo. Marta, ci stiamo cagnolizzando. Esatto, e non abbiamo fatto la domanda, quella proprio dei giornalisti di spettacolo, quella brutta. Progetti futuri? Perché questa è quella che si fa sempre, i progetti per il futuro. Allora, e noi... Chi vivrà vedrà. Vabbè, intanto c'è il film che esce a metà dicembre, quindi un appuntamento col cinepanettone vostro. Non dire quella parola che no, mi sapevo. Giovanni, se è alterato. Basta, non mi volete più bene. E infatti, vabbè, dai, metterò una parola buona. Sai, allora, come si fa? Ve ne volete andare? Che io andiamo. Devo finire la trasmissione da sola, tra andiamo. L'altro. Un bacio? Dai. Andiamo? Cioè, quando tutti. Tornate a trovarci tutti e tre stavolta di nuovo. Quindi Aldo non fa finta di niente. Anzi, posso mandare la mia controfigura? Dai. Il cartonato? Esatto. Ciao, va bene, allora grazie di cuore. Salutiamo anche Arturo Bracchetti. Ciao, salutiamo Arturo. Anche Arturo. Vai a riposare un'altra mezz'oretta. Verremo a vedere il tuo spettacolo, non la prima perché non c'è la... esatto, ma poi anche perché quando sarai a Vigevano, perché mi ho sentito che sarai il 31 di dicembre. Scusa. No, non ce la faccio neanche lì. Gli svizzeri sono stati presentati nel 96-97, ci ha azzeccato Nazareno. Allora Nazareno bel libro, bravo, ci ha scritto un SMS. Quando sarai a Milano, allora? Ma Nazareno si viene sempre a casa tua a tentare di fare gli accordi? E con questa... Ciao ragazzi, a presto. Informazioni sul traffico. Ciao. Scegli Pantera col TH. Scegli l'ERP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Cuore e denari. Per favore, cortesemente, io lo dico cortesemente, può andare un passo dietro la linea gialla e non starci sopra? Non schiacciare la schiena alla linea gialla? Perché la linea gialla soffre. non le sto chiedendo chissà che cosa, voglio dire, è inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto, è per quello che va un passo avanti, eh? Questo allunga questo collo a brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto. Allora, riprendere le fila di una trasmissione seria dopo che Aldo, Giovanni e Giacomo ci hanno accompagnato e fatto divertire molto nella prima parte del programma è un po' difficile, ma noi proveremo a farlo questa mattina e ovviamente abbiamo utilizzato un altro dei loro sketch più famosi. Allora, intanto saluto l'ospite che ci farà compagnia in questi ultimi 4 minuti, ma vogliamo lanciare questa iniziativa. Geronimo Emili, presidente di Cashless Way, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Geronimo, ti piacciono Aldo, Giovanni e Giacomo? No, vabbè, ma questo è un colpo basso, cioè voi mi fate parlare di lotta al contante dopo Aldo, Giovanni e Giacomo. Esatto, allora li abbiamo lasciati tutti gli ultimi 4 minuti, però sì, avevamo uno sketch che andava bene per questo argomento, Geronimo, per cui si è stato scomodato. Insomma, dobbiamo fare un po' i comici sul finale io e te adesso, parlando no invece seriamente di un tema che ti sta molto a cuore. Allora, perché ti abbiamo chiamato? Per anticipare ai nostri ascoltatori in questi pochi minuti che ci rimangono che l'associazione Cashless Way lancia la nuova edizione del No Cash Day, la giornata contro il denaro contante, che adesso assumerà nella prossima iniziativa che sarà tra qualche mese, ma cominciate già a prepararvi, delle dimensioni europee. Verranno invitati tutti i cittadini del vecchio continente ad utilizzare per un solo giorno strumenti alternativi al denaro contante. Allora Geronimo, perché noi ti abbiamo chiamato ad anticiparla con tanti mesi appunto di anticipo questa giornata, perché ci sarà il 27 giugno, perché ci è sembrato curioso che voi la lanciaste proprio nella settimana in cui ha fatto molto discutere la norma che sarebbe contenuta nella misura di bilancio appunto nel decreto fiscale, che fissa i controlli fiscali in caso di prelievi superiori ai 1.000 euro in un giorno e ai 5.000 euro in un mese, e quindi quando viene toccata la possibilità di usare il contante tutti o comunque molti in Italia si mettono subito sull'attenti, e voi di conseguenza avete enfatizzato il fatto che invece farete il No Cash Day. È stata una circostanza fortuita, Geronimo, oppure insomma è stata proprio una misura studiata quella di lanciarla in questi giorni, questa iniziativa? Noi abbiamo sempre avuto fortuna, perché nel momento in cui ci siamo messi a fare la prima giornata contro il contante, la prima edizione del No Cash Day, dopo 2 mesi Monti abbassò drasticamente la soglia dell'utilizzo del contante a 1.000 euro. Andiamo in giro raccontando che Monti ci aveva ascoltato, in realtà è stata un po' una fortuna. Però no, anche in questo caso, dunque, il problema non è convincere i cittadini a non utilizzare il contante, è spiegare al pubblico di fare buon uso del contante e trovare un giusto equilibrio, perché ci sono paesi, è vero, come la Norvegia, la Finlandia, la Svezia, che hanno delle percentuali di utilizzo della moneta elettronica altissime, quasi che rasentano il 100%, ma basterebbe usare per metà delle proprie esperienze di acquisto la moneta elettronica invece dei contanti per arrivare a una giusta dose. Infatti, quindi non è un'iniziativa che vuole, come al solito, da una parte diversa fare un regalo alle banche, perché molti ascoltatori come al solito poi cominciano a commentare questa maniera, ma è un altro spirito quello che anima anche l'attività della vostra organizzazione. Assolutamente, tra l'altro poi ci sono molti strumenti che ti permettono di pagare elettronicamente che sono completamente scollegati dalle banche, e le banche questa cosa hanno imparato a capirla proprio negli ultimi anni, negli ultimissimi 2 anni, e si stanno attrezzando per essere competitivi nei confronti di questi strumenti. Utilizzare la moneta elettronica non significa fare una cortesia alle banche, significa fare una cortesia a se stessi e alla società, perché ricordo a tutti che gli italiani pagano circa 250 euro l'anno a testa per mantenere il contante, la stampa, il trasporto, la distribuzione, la messa in sicurezza. Solo che non li vedono, vedono più facilmente invece l'onere di utilizzare una carta di credito, Geronimo, piuttosto che tenere appunto magari il bancomat e quindi le commissioni che stanno alla base dell'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento. Senti, abbiamo 40 secondi, poi magari ti rinvitiamo per un approfondimento. Sì. Cosa succederà dunque il 27 giugno dell'anno prossimo? Come vi preparate? Allora, stiamo organizzando una serie di iniziative in tutta Europa. Noi abbiamo cominciato nel 2011, ma adesso dopo 7 anni insomma, abbiamo cominciato ad avere attenzione non solo più in Italia. Abbiamo delle città che hanno dimostrato fortissimo interesse nei confronti di questa iniziativa, quella italiana è Bergamo, che vuole continuare la propria, come dire, anima cashless, e poi Copenaghen invece, che rappresenta un po' l'eccellenza in Europa. Benissimo. Per l'utilizzo della moneta elettronica. Ne torneremo a parlare, Geronimo, non ho più tempo, comunque grazie per i tuoi minuti, noi terminiamo qua, ci risentiamo con Nicoletta lunedì, a tutti buon weekend.